attenzione, Gianni, se mi ascolti. Ora vediamo un po', così un pochino più di basso, vediamo un po', 1, 2, 3, attenzione Capri, Gianni Capri, se sei all'ascolto. Sì, quelle stelle Marco, mi ascolti? Sì, bene, forte e chiaro, io qua adesso ho acceso l'amplificatore, ma così se non sento non ci dovrebbero essere problemi anche senza, questo è un altro apparato, ma credo che questo fatto da un po' più basso. Questo da 2,5 watt, pochi watt. Senti, ma c'è un rumoraccio tu. Sì, io ti sento bene, non rilevo neanche nessun disturbo. Vediamo se sto uscendo bene. Hola. Sì, mi sembra di sì, anche riascoltandomi la modulazione sembra buona, Gianni. A te ancora. Sì, quelle stelle, Marco, quelle stelle, sto andando qualcosa per 25 più della Lafayette. Sto andando, dammi il segnale e la radio, calma. C'hai un po' di alternata, una parte del QTC è arrivato corretto e poi no. E guarda, già, segnale, aspetta che cambio gli occhiali, al prossimo passaggio te lo... Avanti. Sì, queste tornando al microfono e c'è Pietro usando, anche quello vuole soltanto qualche RC vuole, ma comunque è bello che qui sarà pregiando la rossetta. E sta andando, però qualche polizia RC li vuole sfruttando, li prendi. Allora sei quasi 8 a questo strumento qua. Sto impiegando il Tokai PV5024 col suo microfono originale. Ok, perfetto. Il microfono del Tokai è già amplificato di 7, capite? Quindi va alla grande, molti si mettevano i micro amplificati, invece quello che c'è il Tokai è un singolo microfono e c'è il potenziomano, però che per aumentarlo e riprendi. Guarda, questo ha la sua scritta Tokai, ma è uguale a quello che ho sul Comstat, però non ha la rotellina. E il microfono è identico esteticamente, ovviamente sul lato c'è scritto Lafayette, c'ha dietro il coperchietto per la batteria e la rotellina nella parte superiore. Questo rotellina non è, ma non l'ho mai aperto, non so, però ricordo che usciva sempre molto bene come modulazione il Tokai, e devo dire che anche ascoltandomi la qualità della modulazione, sembra bella per essere un microfono normale. Sì, quest'è, no, guarda che il microfono originale c'è il Tokai, non ha la rotellina, non le ha. E il Constant c'è il microfono che è rotondo e c'è scritto CRM sempre. E io sto lavorando adesso, non ce l'ho qui sul banco perché sto usando l'eccettiera a tavolo, ripeti. QSL, allora questo qui del Tokai è il suo originale perché c'ha proprio anche il connettore che è sciolto, diciamo che è termosaldato col connettore col cavo, è il suo, magari uno di questi giorni lo apro e do un'occhiata a vedere com'è il circuito. Mentre nel Comstat, nel 35B, ho un microfono che ha la scritta Lafayette ed è uguale a questo del Tokai, identico, perfetto, identico, con in più la rotellina nella parte superiore da 1 a 10. Il Comstat ce l'ho acceso, però il Comstat ho dei problemi di commutazione, soprattutto ce li ho sul canale 12, 11 e 10, accidenti, sugli altri canali problemi non ne ho, ma su quel canale mi dà, alle volte si impalla, è ossidazione, bisognerebbe smontarlo, pulirlo, disintossicarlo e richiuderlo. Che sia profonda, io ne ho due, quindi se questo punto, anzi, Comstat 23 Mark 7 magari sarà di qualche altro modello Lafayette, però è, c'ha la scritta sua originale Lafayette, il microfono è Lafayette, amplificato Lafayette, ma magari l'hanno abbinato così. Comunque, se ci spostiamo sul 12, là funziona bene, io posso provare a fare un passaggio così, usare il Comstat. Io ho il 35, quello che c'ha il disco del commutatore dei canali rosso, dammi QSL, il tempo di staccare il connettore qua dal toccai e lo metto sul Comstat che è già caldo e tutto il giorno acceso. Il QSL va col esecutivo, andiamo sul 12, io quando l'ho portato era ghiacciato, non ho potuto lasciare un po' perché in tavola c'è un freno, c'è un fatto piccolo, piccolo tamburino che avevo costruito per mettere gli apparati, quando le faccio da fuori, perché se no è capito tutto, anche qui c'è freno. Ok, esecutivo 12 allora. KQSL. Vediamo un po', Gianni sei qua? È un po' saturo. È molto cupa, è proprio nasale come modulazione. Prova un po', sembra che forse stia migliorando. Cioè, dei momenti che l'avrei sentito, forse se ti fai anche ascoltando, che un po' innesca, poi però adesso è migliorato nell'ultimo pezzettino. QSL, qua io sto impiegando il Telsat, ho collegato che era già acceso, è già caldo, era già pronto, questo problemi non ne ha, col suo microfono da palmo, questo eroga circa 3 watt dove vedo qua lo strumento. QSL, la modulazione è un pochino più chiara, adesso sembra che vada meglio. Qua invece sto utilizzando il suo microfono originale da palmo, che è abbastanza strano come forma, grigio di colore, il suo microfono. I watt sono quelli dell'apparato, non c'è. Ecco, vedo che sul parlato questo ha picchi positivi. Allora, vedo che ha picchi positivi e va sino, raggiunge quasi 4 watt, sul fischio va anche un pochino più di 4 watt. Questo è il quanto, Gianni. Aspetta, vai che guardo. Guarda, questo strumento è poco meno di 8, qui il Telsat ha un numero sì e un pallino, qua c'è 7, poi c'è dopo un po' di spazio c'è il pallino che sta per 8 e poi c'è il 9, qua sì, poco prima del puntino che identifica il numero 8, che è un po' più o meno tipo quanto ti ricevevo con l'altra radio. Che antenna hai tu già che non ricordo? Ok, Sirio Tornado, sì, quella che c'ha il mollone un po' tipo la Mantova. Sempre la piazza, molte volte la piazziamo. sì, c'ha il classico stilo da 1,5, quello più cicciottello. No, sto pensando che mi sa che però ce l'ho io. Mi sa che ce l'ho. Aspetta che guardo un attimino qua nell'altro mobile di fianco dove c'ho tutta una scatola con i microfoni. Non l'ho trovato su questa scatola, che c'era un po' di microfoni e non l'ho trovato, però mi ricordo questo microfono, probabilmente è da qualche altra parte. Sì, mi hai ricordato questa cosa del fatto che è piccolino, difatti, mi ricordo. Sì, io ce li ho in corsa, ce li ho tutti e due, ce li ho, però diciamo che li devi mettere un microfono amplificato, altrimenti non servono a niente, sì, se il radio forse per aumentare la preamplificazione, però è capito, non sono un grande . Questo è, no, ma qua io c'ho il Turner con le connessioni anche per il Comstat, capito? Sì, anche io ce l'ho, l'ho portato, però è da rivedere, c'ho sia il più 2 che il più 3, quello primo, forse sembra che il più 3 picchia anche con le connessioni per il Comstat, però sono tutte le comandamenti garanti, sono da rivedere Marco, hai capito? Poi c'è un altro Turner più 2, quello che c'ha la preamplificazione dentro il collo del microfono, non della cassa, quelli proprio dei primi ripresi. Sì, QSL. Bisogna che lo smonti uno di questi giorni, se c'ho voglia, e gli dia questo conto, gli dia una passata di pinzello, cercare di rimetterlo in funzione. Commutatore, avevo già visto da un po' di anni fa che prima lo faceva, poi facevi magari stava 2-3 ore dopo un po' e si impallava, poi riprendeva, poi facevi girare la manopola e si riprendeva. Adesso invece evidentemente la patina si è seccata e non va. Sì, perché poi la patina forma qualche cosa, bisogna attaccare proprio siete tutto e Marco, però forma qualche cosa e poi non fa il contatto. Poi per quanto riguarda il microfono, la transizione, se ti attiri sulla valvola 5 e sulla valvola 12 a 17, quelle sono le valvole del modulatore della ricezione, si devono appunto i piedini con l'arco e poi te le rimetti, ripresi. Sì, QSL, bisogna che abbia l'entusiasmo qualche giorno e mi metta a fare questo, tra le varie cose, mi metta a provare. Allora, intanto qua sto facendo funzionare, partire il computer e vediamo un po' che cosa succede. Stavo dicendo, Marco, se c'è il computer, vai su CP3 e ti scarichi il manuale del Comstat 35 bit, e c'è il manuale di quella radio, io ce l'ho, e così prendi un po', Sì, lo conosco quel sito, è fantastico, cioè buona parte di tutti i prodotti che sono stati costruiti dalla banda cittadina con manuali e anche modifiche, è veramente di grande aiuto e di grande riferimento CBTrix. Io invece ho il fondo alcuni schemi perché me li aveva dato il vino, anche ciò, il volume della fone chiara, anche il volume 2. Capito? Non sono senza fumi delle radio qui, di ogni radio sono lui sembra, mi ricordo che esce bene, cioè 4 watt, cioè, va in trasmissione, va. E c'è questo problema della commutazione che si è incrostato ancora di più. Adesso sto vedendo qua, siccome sono dall'altra parte della sala radio, perché ti ho detto che da una parte c'ho le apparecchiature radioamatoriali, dall'altra parte c'ho queste che sto provando, e poi un altro lato ancora c'ho quelle che invece sono in attesa di presentarsi qui in zona di operativa. Ho un computer anche da questa parte, però adesso non so perché non mi stava vedendo il wifi, non me lo stava vedendo, c'è sempre qualche seccatura, Gianni, sempre qualche problemino c'è, ma è chiaro che tante cose hai e tanti problemi si generano. Sì, puoi essere Marco, ma dimmi un pochettino, Paolo Chernacchetto si trova ancora? Ma credo di sì, io non lo sento da un po', la verità non lo sento da un po', però credo che sia ancora, insomma, in forza, diciamo. Sì, ho andato una volta a casa sua con Pomponio, allora ero giovane, e ci aveva un Contact 25P, e lo dovrebbe avere ancora, il Contact 25P, è la prima volta che lo metto in funzione, lo metto a casa sua, ripeti. Quest'era, io adesso sono tanti anni che non vado a trovarlo, ci andavo ogni tanto per dargli una mano e rimettere a posto la radio, il 440 che lui usava con la scheda fonemi e per poterlo, insomma, far funzionare, e usciva anche in HF, però adesso devo dire sono già un po' di anni, anzi adesso me l'ha ricordato, nei prossimi giorni magari gli faccio un colpo di telefono per sapere come sta. Beh, sarà grandetto adesso, adesso non mi voglio avventurare, ma almeno 75 anni dovrebbe avere, no? Sì, qualche cosina in più penso, qualche cosina in più, mi stia andando solo tantina, perché io quando ero andato a trovarlo, allora, del 1980 mi sembra, e era già, quindi se ne aveva quasi 50 all'ora. Vabbè, se fai 50 euro, comunque sulla panchina potrebbe essere sulla panchina, allora già tiravo, quando tipo dal laboratorio vicino a Bacco, non mi ricordo cosa, mi aveva fatto contattare, perché voleva, io avevo il faccio 123, e se lo voleva comprare, perché tocca un volumato, ho detto guarda, l'abbiamo anche attaccato dalla sua, guarda, toccavo in questo, si chiamava quello volumato pace 123 euro, si chiamava, quindi non glielo venduto perché io sto trovando una roba, ho detto che non era volumato, che non era volato, poi non so ancora meno se gliel'ha fatto aprire, perché l'ho detto questo pace 123 euro, ma non era come quello che c'era, io c'avevo 123, hai capito, e non è niente, perché quando sono andato Pomponio mi ha parlato di faccio 123, io se no se vuole, ho detto glielo do per qualche tanto, però non era quello, questo qua ho detto che questo omologazione non era, riprendi Marco? QSL, io adesso non mi ricordo, ma sono passati tanti anni, aveva il 440 e poi un apparato bibanda col quale fra l'altro ogni tanto ci sentivamo in VHF, entravo ogni tanto a far due chiacchiere, ma generalmente ricordo il periodo primavera così, e adesso però sono già tanti anni che non si fa sentire. Sì, fra l'altro era anche iscritto alla sezione di Sassari, insomma, e qualche volta ci si incontrava o andavo io da lui anche per le storie dei documenti, queste cose qua. Vabbè, speriamo che stia bene, lo chiamerò nei prossimi giorni. Chi invece è venuto a mancare è il grande Puccio di Aglienzo, non so se lo hai conosciuto. Puccio, grande radioamatore, grande appassionato di apparecchiature ecco, militari, tipo Collins, tipo cosa aveva lui? Aveva Rode Schwarz, tutta roba professionale. Sì, questo è il Marco, me lo ricordo, cioè, me lo ricordo, un grande, il più che appassionato era della Collins. Era Collins, guarda, infatti mio zio, adesso è morto, era un ex appuntato dei carabinieri, e di questa roba me la voleva fare a me, me la voleva, perché lui era stato, conosceva Francesco lì a Longarone, ti ricordi la zia del Bagnone? Quando è successo questo fatto lui era, diciamo, un suo pensiero ed era andato lì. E aveva fatto amicizia, poi c'ha dei fratelli a Bozzano, c'ha e a Brice, quindi uno di questi fratelli suoi trattava Barattini, infatti uno ce l'aveva regalato, ce l'aveva regalato, tutto color d'oro, cromato color d'oro, poi l'avevamo fatto e abbiamo fatto malissimo. Ed era in grado lui di preoccuparsi della roba Collins, perché conosceva gente, capito, tramite il fratello anche, che invece poi non me ne fregato mai nulla, perché era troppa roba. Quando è venuto il mio amico che ha portato le RC-66 che ne avevo dato una lignatina, me lo voleva regalare, ha detto Gianni non lo voglio perché non parla lui, poi andava solo in effetti e non mi interessava, poi di quello non si aveva il link e il vecchinome, quello andava in un sacco di fame di Radio Mattoni, andava e però la roba troppo voluminosa, hai capito? Ma lui era appassionato di quelle cose lì, di quei catafalchi, Collins sì, era proprio uno delle sue cose, ma aveva delle cose veramente esclusive, addirittura aveva apparati prodotti in pochi esemplari e lui ne aveva più di uno, pochi esemplari ma pochi e lui ne aveva più di uno, io non ricordo ma come lui aveva fatto negli anni passati a arrivare ad ottenere queste radio, e tante volte abbiamo fatto questioni in 80 metri nei decenni passati e addirittura lo conoscevano negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti lo cercavano perché lui aveva anche non solo questi modelli esclusivi prodotti in pochissimi esemplari, ma in più aveva anche ricambi e parti speciali e per chi era un suo amico, insomma, entrava nelle sue grazie e gli forniva questi componenti, valvole o parti meccaniche di queste apparecchiature che aveva lì in quella specie di deposito dove aveva accatastato tutto e trasmetteva sempre anche con antenne filari di produzione Collins, ecco, lui usava sempre soprattutto una Collins in rame, ricordo, che veniva militare, che veniva avvolta sul rocchetto e l'amplificatore Collins, usciva sempre molto bene comunque, arrivava sempre in giro per il pianeta tranquillamente con queste sue vecchie apparecchiature. Sì, queste, no, ma io volevo già, allora, la prima volta che ho portato il paracchino, siccome noi eravamo tutta una famiglia, si può dire, mio padre era ferroviere, statale, e nonno e nonna, il padre di mia madre, erano sempre con noi a tavola, e nonno lavorava, lo sai dove, ma dentro la poverina di Capomera, ed era uno di questi, capito, ti dico Francesco Corsia, che erano grandi amici, e andava anche a Capopulina, era uno di quelli, ma non l'ha visto, si è messo a ridere, ha detto, se faccio vedere radio, ha detto, ti metti le mani in testa, e si stava sicuramente riferendo a quelli lì, perché erano in contatto con questa roba sempre americana, lui andava anche fuori, per le religioni, andava lì ad Alghero, hai capito, se avevo voluto, però sono troppo voluminose, non mi piacciono, hai capito, quelle radiomilitari, per quello, ma li prendi. Quelle, e comunque, insomma, poveretto, poi è stato male, poi l'hanno portato in ospedale, in una casa. casa di riposo giù a Cagliari e niente, poi tutte le apparecchiature so che sono andate da Fusaro, a Fusaro di Cagliari, e niente, credo che le abbia lui, ma ne aveva un capannone, ne aveva di queste apparecchiature. Io non ho avuto mai occasione di andare a trovarlo, perché hai capito, non è che mi allontanavo molto da paese, perché all'epoca anche se avevo un 850 Fiat che prima era di tappo e l'aveva fermata, perché non siamo mai riusciti a mettergli a posto il raffreddamento, il motore rifatto a nuovo, puliva, sempre era attivato da nuovo, che durava 26 anni la prima tappo. Però con quella macchina non mi avventuravo, se no ero andato già, hai capito? E poi che mi ricordo quando è venuto Cossiga in laboratorio da Dino, con l'Alfa 1, allora non era niente, a comprare il barattino, c'ero io il giorno in laboratorio, si è fermata questa Giulia, si è fermata Bianca, non sai chi ha detto quello già, Cossiga, e io perché Cossiga? E lì gli aveva fornito un Amarun di un altro apparato, e trasmetteva la spia a Giordazzoni, ma riprendi? Sì, QSL da quella villa giù ad angolo, che adesso è diventata una struttura per eventi, sì, so benissimo, non sapevo che avesse comprato lì radio da Beta Verde, ma frequentava molto a Sassari e addirittura aveva donato un ricevitore Drake alla sezione aerea di Sassari, ci sono dei documenti fotografici che risalgono a tempi addietro di queste situazioni, questi eventi così particolari, questa sua donazione e niente, adesso quella radio dovrebbe averla Walter, mi pare, credo che l'abbia lui, si era iscrivisi un R4B mi pare, un ricevitore della Drake che aveva donato, ma sto parlando degli anni, fine degli anni 70, prima degli anni 80, è una cosa che è successa in quel periodo lì. Sì, poi io ho un'alfa, 23 canali che era il suo, quando lui è andato a Roma, il barattino, questo barattino alfa, come si cavolo si chiama, che c'erano i garaggi, 23 con le bande laterali, Giardino c'era, questo lo so se ti incontri a Beta Verde, questo armadio con i vetri di ferro, e lì c'era sempre, questo Rolex c'era, che poi c'era qui che l'ha regalato lui, e questo alfa, che un giorno Dino che su fatto mi aveva detto questa era di Francesco, perché trattavano pure Camicero, che l'ha fatto anche di Fabulia, Dino. E niente, poi mi aveva dato il Rossi, poi ce l'ho riattato e mi aveva dato questo alfa, ce l'ho garage, perfettamente funzionante senza il microfono, ma poi gli ho dato un altro microfono che funziona. E già che poi non so che fine hanno fatto, e mi aveva parlato perché aveva questo Amarun che aveva, ma sicuramente gli avrà donato a qualche duro, perché lui non si è portato nulla, mi ha detto Pino, perché fino a poco tempo addietro c'erano ancora le antenne, ma riprendi? Beh, sino a 15 anni fa, almeno. Non so poi che fine abbiamo fatto le altre cose, questa radio che era rimasta per tanti anni in sezione, poi la sezione doveva rinnovare eccetera, e ricordo che insomma era stata ceduta a prezzo simbolico per comprare qualche cos'altro da lasciare in sezione, così fu, va bene, cosa volevo dirti? Niente, questa radio vedo che sta sempre funzionando bene, ecco cosa ti volevo dire, che ho guardato, perché non mi ricordavo se avevo, ho preso il telefono poco fa, se avevo il tuo numero per mandarti qualche fotografia, ma invece non ce l'ho. Adesso te lo do un attimino. Se non vuoi dirlo, se c'è un problema, mi mandi una mail o te la mando io, una mail con il numero di telefono. Non ho paura di dare il numero di telefono, Seychelles. Aspetta qua che me lo memorizzo e ti mando qualche scatto fotografico. Miglia, Marco. Cosa te ne pare? Bellissime, ma bellissime. Hai capito? Ho visto il 35, uno di due toccai. Io ho anche il 39 toccai, lo Zodiac M5025, non so se lo conosci. Allora, io che cosa ho Zodiac? Qua, su quella parete, sulla parete lì accatastati, dove ci sono sovrapposti, c'ho qualcosa che è giù, è lo Zodiac, aspetta che vado a leggere, che qua dalla foto facendo l'ingrandimento non si vede. Sì, ho visto che sei anche tu in stazione base, adesso questo domani o dopodomani mi arriva ancora dentro la scatola originale, è uno in garage, però c'è da fare qualcosa, adesso me ne sta arrivando un altro, questo tipo me l'ha fatto aprire, mi arriva domani o dopo, ma ripeto. Il 5024, è B5024. Sì, anche io ne ho tanti toccai, dentro una scatola di utilizzo per pesci, capito? Alcune, però alcune le devo mettere a posto, ripeto. Le devo mettere a posto per avere i conversatori, hai capito? Ce l'avevo fino a pochi giorni fa e poi l'ho portato tutto originale, microfono originale. E devo far fare, come ti ho detto, la signora cura. Cele. Poi ce ne ho delle altre che ho fotografato, però lì adesso non c'è la luce, non c'era, dove c'è il cos'è questo, perché non me lo ricordo. Ah, c'è un Royce sopra, un altro Royce, poi c'è un altro sotto che non mi ricordo cos'è, poi c'è un Colt e poi là c'è il Comsat 19, mi pare, e qualche cos'altro. Sì, questo è il Rossi, questo che io ce l'avevo, e l'ho dato via un signorino, perché prima ha voluto un altro apparato, però lui è affascinato dal Rossi, prendo, siccome le persone le voglio bene, prendere i contenti, ma prendo e glielo dato. Ce ne sono, ne ho due, c'ho quello che è sopra il Simba, che è quello lì a posto completo di tutto, e poi ce n'è l'altro che è dall'altra parte, che aveva la scatola in legno che era distrutta, però la radio insomma era non perfetta, ma insomma c'è qualche piccolo lavoro da fare, ma da mettere insomma a posto un po'. Guarda il DAC com'è, è fantastico, il DAC è devi vederlo, è uno spettacolo, è come nuovo. Sì, l'ho visto. A me mi piace, c'è lì su che c'era Claudio, però è troppo voluminoso, per me ti capisco quasi. E quindi, me lo sta facendo il mio figlio, che parla anche lui in radio, me lo sta facendo vedere. Ho capito, è molto bello, qui è tutto restaurato, penso quello che è perfetto, è molto altro qua. Quello che è sotto il tanque che ha parlato è Marco. Quello lì è il Super Console, quello lì ne hanno prodotto pochissimi esemplari, è quello che ha l'ascensione dei canali, fa la ricerca e se il canale è occupato si ferma la ricerca, uno dei primi sistemi di ricerca elettronica, e ne hanno fatto pochissimi, quello l'avevo preso da un museo che avevano smantellato di un appassionato, ti sto parlando di più di 20 anni fa che l'avevo comprato, me l'aveva fatto fare anche parecchio, la moglie me l'aveva venduto, mi ricordo, adesso non so se lui era morto o meno eccetera, comunque avevano smantellato questo museo di queste radio che lui aveva perfette, funziona bene, è a posto quella, è nuova anche il legno, perfetta. perfetta, molto bella quella, si chiama Super Console. Sì, sì, beh, infatti l'ho buttato l'occhio subito, perciò sei, ti stavo dicendo, ma sai che noi ci facciamo vedere, ti faccio sentire al Claudio, il mio figlio, la fotografia della cosa di quale microfono ho già. Ok, anche ti faccio sentire la foto, sì, già lì c'è. E con i libri, cosa? E diciamo quasi tutti, io ho sempre cose per la spesa, perché io sono un portatore di trasporto scolastico, me lo guido io, me lo so. E questa roba del Covid mi ha tagliato le gambe, adesso abbiamo ripreso sempre i vicini che chiudono le scuole, e mi ero accumulato dei pagamenti di libri che mi sono pagato la banca, questa cosa, però sempre c'è un punto lo stesso, almeno ci saranno stato più organizzato e ripreso. Aspetta, sto facendo un'altra fotografia meglio, dai, ho messo un'altra lampada. Ecco qua, vedi, ti ho fatto una foto con un po' l'ingrandimento dove vedi meglio il DAC in particolare, insomma, dai. Questo è il rebar. Poi c'ho anche il coso, perché ho conservato, c'ho calci 5008, lo conosci? Così a memoria, 5008 non me lo ricordo come, dovrei guardarmi, aspetta, guarda le fotografie del Radio 2. Sì, bello, bello il Comstat, bello, bello. Penso di sì, io ce li ho tantissimi anni, ma penso che si trovino, perché comunque si trovino su eBay, cioè prodotti che non credo qua, perché era una radio che sì, qualcosa fu importata in Europa, però prevalentemente si trovano su eBay.com, negli Stati Uniti, prevalentemente lì. A meno che non sia la fortuna di beccare qualcuno che magari l'ha comprata, l'ha importata e poi adesso la sta vendendo. Però è un bel bestione, è un bel bestione. Io ho visto, come se ne stavo parlando molto di questa roba, però non è che si interessa. Perché se riesci prendo. Dall'altra parte invece, hai visto l'altra foto là dove c'è proprio la parte, diciamo, dove normalmente faccio attività radio, lì ogni cosa è studiata al millimetro e ogni spazio è incastrato ad hoc, non so se hai visto, sul lato destro si vede a fianco al mixer, non è che si veda molto, però si vede un po' di traverso, si vede un monitor, sai che ci sono i due strumenti, c'è un amplificatore in basso a destra, poi sopra ci sono due strumenti, a destra c'è un monitor, quello lì è il monitor dove praticamente sto facendo costantemente attività su un satellite che è geostazionario, e la radio che sto impiegando è quella che vedi un po' verde, sono due a fianco, una è, c'è il display arancio che è il VHF, mentre il display della UHF è verde. Quella lì è quella radio, è quella che pilota il driver, che pilota un transverter a 2 GHz e 4 e mi porta sul satellite, e poi esco a 10 GHz e 489 MHz, dove ultimamente ultimamente già da un po', insomma, sto facendo attività di ex collegamenti. Ieri dopo che ci siamo salutati sono rimasto in radio e ho collegato alle 3.45, mi pare, ho detto prima a Salvatore in VHF, alle 3.45 ho collegato un radioamatore dall'India che gestisce un net, che è una sorta di incontro, di schede dove si danno appuntamento vari radioamatori indiani. E insomma ho collegato, ho fatto due chiacchiere e poi sono andato a dormire. Perché devo dire che io stavo cercando il 25 e poi che cosa è successo? In radio, in 40 metri un giorno, facendo così attività di chiacchiere, un po' come stiamo facendo noi qua, chiacchierando con un paio di radioamatori eccetera, cioè qua là si parla di radio, cosa c'è, cosa non hai, foto sul sito di QRZ dove portiamo le foto della stazione eccetera eccetera. Anche io sono appassionato, cioè anche io ero nella CB e ho sempre conservato la radio che ogni tanto accende eccetera eccetera, c'ho un Comsat 35B e allora da lì cosa fa? Lo tiene, lo vende e l'ho acquistato. Ed è venuta così, perché se no io cercavo un 25, però capitata questa circostanza, c'è la radio, l'ho comprata io, allora l'ho sempre tenuta qua, eccetera, eccetera, in buono stato, e gliel'ho comprata. QSL, e così, insomma, è chiaro che bisogna ripercorrere le strade. Io penso che la prima volta che l'ho vista, mi ricordo ancora, ero da Maurizio Mastronardi, non so se te lo ricordi, al grattacielo, lui entrava con me, Maurizio, diceva Maurizio, e lui era già un più grande di me, un ragazzotto grande, e avevamo un'amicizia comune con un rappresentante, di Lampadari, che veniva in negozio e ci vendeva prodotti Continentale, che era appassionato di moto, e allora il negozio da babbo eccetera, appassionato di moto, e avevamo fatto amicizia, andavo in moto con lui lasciava la moto da me in garage eccetera eccetera quando veniva dalla penisola, e poi aveva saputo che io ero anche appassionato della radio, che ero CB, eccetera, eccetera, eccetera. Io cioè, sono amico di Maurizio, ho detto, ci sentiamo sempre con Maurizio. E vabbè, e poi sono andato con lui a casa di Maurizio e ho visto lì per la prima volta, e sentivo sempre Maurizio che usava il Comstat 25B, e ho visto per la prima volta a casa sua questa radio, e lui usciva una bella modulazione, a parte aveva una bella voce, eccetera, eccetera. Non so se tu l'hai mai collegato, Maurizio al grattacielo, aveva un'antenna sul, aveva una, non era una Super Regibus, comunque un'antenna così, tipo la Super Regibus su in cima al grattacielo, pensa un po' che cosa, come andava. Sì, ero abbastanza incenerato altri di Costa, se non posso più aprire, ma ce ne erano perché lo sapevo al 100%, e altri incenerano parecchi. Sembra che qualcuno ce la faceva Mario Montagne, anche Mario Montagne diceva che qualcuno ce la faceva il Costa, perché gli avevo detto che avevo il Costa, e mi è fascinato che lui ne aveva uno. Di questo non ti posso dare sicurezza, però Mario ne aveva abbastanza, l'aria che li collezionava, non l'ho visto tanto a vedere, perché io ci andavo fuori, insomma, a comprare radio, via le mamiche, ma andavo perché l'ingegner Meloni ci aveva costruito la verificazione per piazza per la fisarmonica, capite, c'era il signor Alfano, c'erano tutti e tre, e così per un viaggio manco a parlarne, ripeto. Sì, QSL, l'ho visto anche da poco a Meloni. Sì, allora lui si dedicava a queste cose, poi la costruzione delle casse, da lì poi avevo costruito le casse, poi Mario conoscevo conoscente di famiglia, il fratello professionale che è architetto, col quale c'era un rapporto, poi è nato subito un rapporto anche professionale. Peccato, Mario doveva insomma anche lui poi approdare all'attività radioamatoriale, invece poi niente, si è perso, e adesso è da un po' che non lo sento, poi il negozio, sai bene com'è andata la situazione, poi l'hanno chiuso e adesso lui si stava dedicando sempre a seguire quei lavori dei service, ma non so bene perché ne ho un po' perso le tracce, diciamo. Sì, no, poi noi che eravamo serviti da servivamo da cose elettroniche, come un figlio che quello che chiamava cose elettroniche costa, andavamo anche lì da audio linea, capito? E quindi qualche volta la seconda la facciamo, però le casse erano casse per cantatori, la finanziarla, però poi l'ultima stampa è stata quella di cose elettroniche, ripeto. Ho capito. Io invece negli anni 90 e poi eccetera, ho provato un po' di queste cose professionali e sono stato fra i precursori a livello mondiale dell'impiego di sistemi pro nel mondo del radioamatoriale. Ho fatto vendere milioni di apparecchiature alla Behringer, perché avevo preso da 3M, ma aveva col rapporto che c'era professionale, anche perché di amicizia col fratello, eccetera, eccetera, insomma, ho cominciato a fare degli esperimenti, testare delle apparecchiature pro da utilizzare abbinati alle apparecchiature radio, e tra il radio con una modulazione da paura, per effetti silenziosissime, perché comunque con i noise gate e con tutto quello che è possibile dalle apparecchiature che sono presenti per l'impiego in serie registrazione e cose del genere, e da lì sono partite le vendite a manetta in tutto il mondo. La Behringer ha venduto milioni di apparecchiature, non sanno neanche perché, e quel pirlone di Sassa, di Marco, di KB, glieli ha fatti bene. E penso che quando io, dopo che ho fatto i primi test, che ho cominciato eccetera, io ho provato a contattarli e parlare con loro, con la direzione commerciale eccetera, di Italia, non si sono neanche mai degnati di venire a rispondere al telefono. Dopo un po' di tentativi che ho fatto, eccetera, li ho mollati. Sì, come ti ho detto, è compagno di classe di studi del fratello, e poi conoscevo Franco che lavorava da lui allora, che curava il service, e perciò ho avuto modo, proprio utilizzando delle cose che avevano nel service, di fare dei rapporto amici, e dice prendi, prova se va bene, eccetera eccetera. Perciò ho provato microfoni di tutti i tipi, ho provato Neumann, ho provato Shure di tutti i tipi, ho provato ho provato di tutto, guarda. E come vedi, se fai l'ingrandimento nelle fotografie, vedi che comunque ci sono ancora qualcosa come 2, 4, 7 apparati professionali. Ci sono due pre-microfonici, un equalizzatore parametrico, una macchina che fa da equalizzatore parametrico compressore spaziale dinamica, insomma c'è un bel po' di cose, di apparecchiature pro. Poi c'è un affare che è nato dalla Behringer per l'impiego per le cuffie, che io invece l'ho modificato e utilizzato per uso microfonico, come commutatore microfonico, per poter fare anche, non so, iniettare musica o registrazioni o cose del genere, poterle ritrasmettere, che è quello che si vede in alto a destra, nella parte, diciamo, di fondo del lato destro del mobile, delle apparecchiature. E niente, perché negli anni, fine degli anni 90, così, quando non c'era granché di propagazione, allora passavo ore e ore a provare, a fare. E poi, come hai visto, ho un mixer, un Eurodesk 9000, un mixer professionale che impiego per miscelare tutti gli audio degli ascolti delle varie apparecchiature. Ciao Claudio, buonasera. Forse qualche altra volta Mari ci siamo sentiti. Piuttosto come avete forse spostato il microfono ha creato un fortissimo effetto di alternata che per tutto il passaggio, ma ho comunque capito il QTC e Claudio. Bene, allora piacere di averti sentito, Claudio. Buonasera. A me mi è sembrato Tonino, mi pare, più che Claudio, o no? Boh, vediamo. K, non mi riconosco mai. Ciao Marco, ciao Claudio. Tonino, buonasera, ma ci sono presentato Claudio, ma se dava forte, perché mi ha somigliato un po', perché sono stato una razza con la Spampus, con un sas dalla facenza, così da visto stavo a vedere, non funzionante, quindi non ho riconosciuto dal segnale, capito? Stringiate con la buonasera. Carta, vuoi sentirti, però ti sento fuori frequenza, 27-110 addirittura, tu Marco come lo ascolti? Tony, stiamo usando roba del passato, apparecchiature vintage, perciò è tollerata. Se la modulazione non è performante e se non si è perfettamente, se i quarti non sono oramai più particolarmente efficaci, questo fa parte del periodo, sono ormai radio che hanno, questa che ho io, mi pare che sia del 78-79 probabilmente, che sto usando adesso. No, adesso non ho acceso qua il PC per vedere, ma comunque è forse prima degli anni 80, non so se magari Gianni se lo ricorda, il Telsat, il 140, di che periodo è quella che sta usando lui ancora prima, è quella che sto usando, che ha usato Claudio adesso, è del 73 mi pare, 74 o giù di lì. A te Claudio o Gianni? Quattro, quattro, quattro, quattro, quattro.